22:55 minuti primi. Onda Rossa. Twenty five o'clock. Aprile 2025 sugli 87.9 della banda romana e laziale in DAB da Perugia, Terni, Roma. Il radio abbonamento vi spiega pure che ci stanno delle spese da fare per migliorare. Migliorare il broadcast e quindi la ricezione vostra per quanto riguarda il DAB. Che succede qui? C'è un qualcosa che suona, che squilla? Boh, un attimo, va. Inaspettatamente ci vengono a trovare qua in radio. Dicevamo, quindi, radio abbonamento partito ormai dai primi del mese di aprile, ormai siamo al 23, dicevamo. E comunque con un buon successo di adesioni, dobbiamo dirlo, insomma, lentamente ma progressivamente si va avanti. Diciamo, il radio abbonamento che procede con la giusta andatura, ma procede giorno dopo giorno, insomma, vediamo che aumentano i vostri contributi per quanto riguarda la radio. Radio Onda Rossa che vive dal 1977, ormai siamo a poco meno di un mese, praticamente un mese e un giorno da quello che sarà il compleanno della radio. E a breve, oltre a quella che è la campagna della di abbonamento, daremo anche corpo a quello che è il programma che ci sarà della dei festeggiamenti del compleanno di Radio Onda Rossa, dell'Onda Rossa Festa, o come lo volete chiamare. 23, 24 e 25 di maggio 2025. Oggi però la puntata verrà invece declinata a quelle che sono i festeggiamenti di questi giorni, che non sono affatto festeggiamenti per noi, ma sono ricorrenze. La ricorrenza della liberazione dal nazifascismo, che è avvenuta per merito della lotta partigiana in questo paese e in tanti altri paesi di Europa e del mondo, declinata in varie forme e varie modalità storiche, però di fatto questo è stato e dato che siamo abbastanza freschi da appunto meno di un mese, qualche settimana da quello che invece era il ventennale dei palcoscenico al neon, non possiamo far altro che iniziare in questa maniera. Che ci sarà un fascista sulla faccia della terra, ci sarà un buon motivo per essere antifascista. Intelligence. Allora, 23:06 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda Roma Nellaziale. Ci avviciniamo ormai a meno di, a poco più di 24 ore a quello che è la nostra festa, la festa di primavera. Questa volta non siamo riusciti, in realtà, proprio, forse non ci siamo nemmeno sforzati troppo a invitare quello che è il nostro ormai compagno fisso della puntata del 25 aprile, e cioè Marco De Pittentotto Punk, per fare la nostra vetero puntata. Però non tarderemo in realtà poi a incontrarci qua negli studi della radio e a condurre insieme E quindi dopo Palcoscenico al Neon, Erode, Banditi, siamo nel 1991, vecchio hip hop statunitense, non questi gli Erode che vanno ancora sotto, e avevo voglia di leggervi il testo di questo che era la title track del disco dei Consolidated. Per dire quanto molte delle tematiche che oggi vengono così sbandierate con l'appellativo di woke, in realtà erano tutte presenti già 30 e più anni fa. E questo è Friendly Fascism Consolidated. Benvenuto, signore e signori, alla fine del XX secolo e l'arrivo del fascismo amichevole. Purtroppo milioni di persone morirono come prima, ma pensa alla straordinaria selezione e ai risparmi che guadagnerai. Naturalmente la perdita di libertà e democrazia sono tragedie, lo so, ma considera il valore dell'intrattenimento contenuto all'interno. E per ricordarti, sei tu il popolo che hanno mandato questo corso del nostro destino, quindi per favore. Vieni con me. Guarda il nuovo volto del potere in America, questo è il tuo futuro, non puoi non andartene. Qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione. Chi ha detto che la tirannia non può essere divertente? Il fascismo amichevole si diverte tanto. Sì, cos'altro ti serve? Imparerete ad apprezzare quello che dovete fare. Se resisti, sei soppresso. Ti viene detto di chi combattere e quando. Da Bush, amico, fascista e nazista. La tecnologia alienante spazza via il nostro senso di comunità. Milioni di persone morirono come prima. Disconnettiamo e iniziamo la guerra. Facciamo della vita una merce. Trasformiamo gli animali in macchine. Macellaio. Più gentile e più dolce. Grandi imprese e governo. A distraiterci attraverso l'intrattenimento. Producono il nostro consenso mentre distruggiamo l'ambiente. E poi ascolterete dentro appunto la traccia anche degli audio, in particolare questo qui di Barclay 21 anni, portavoce afroamericano dell'Attica, prigioniero ucciso dai soldati dello Stato di New York il 13 settembre del 71. E quindi continua il testo. Cosa era successo qui? È solo un suono davanti alla furia di coloro che sono oppressi. Tutti noi abbiamo capito che dove mai è quella lotta c'è un sacrificio. E ancora un altro pezzo dei ribelli di Attica, uno dei leader afroamericani del gruppo di ribellione carceraria dei fratelli di Attica. Non ce ne andremo, non andremo a. Vuoi sapere perché non ce ne andiamo mai? Lo vuoi sapere? Perché noi siamo uno, noi siamo una sola unità. Siamo stanchi di essere picchiati, siamo stanchi di essere oppressi. E poi ancora un estratto di un campione di un barbuto scienziato del film di John Carpenter del 1988, dei Live. I poveri e le sottoclasse stanno crescendo, la giustizia razziale, i diritti umani sono inesistenti, hanno creato una società repressiva e noi siamo i loro complici inconsapevoli. La loro attenzione al dominio spetta all'annientamento della coscienza. Siamo stati trascinati in trance. Ci hanno resi indifferenti a noi stessi, agli altri. Ci concentriamo solo sul nostro guadagno. Si prega di capire che sono al sicuro finché non vengano scoperti. Questo è il loro principale metodo di sopravvivenza. Per tenerci addormentati, per mantenerci agonisti, per tenerci sedati. Guardate il nuovo volto del potere in America, questo è il tuo futuro, non puoi mai andartene. Chi ha detto che la tirannia non può essere divertente? Il fascismo amichevole si diverte tanto. Di cos'altro si serve? E infine l'estratto di un discorso di un poliziotto dal film di Day Live. La sensazione è sicuramente lì. È una nuova mattina in America, fresco di più, vitale. Il vecchio cinismo è scomparso. Abbiamo fiducia nei nostri leader. Siamo ottimisti su ciò che è successo. Friendly Fascism Consolidated. Radio Onda Rossa, 25 o'clock. We'll be right back. Just think of the tremendous selection and savings you'll gain. Of course, the loss of freedom and democracy are tragedies, I know. But consider the entertainment value contained within. And to remind you, it is you, the people, who have mandated this course of our fate. So please come with me. Fight and win by pushing Nazi fascist friends, aliens. 23:24 minuti primi, Radio Onda Rossa. 25 o'clock. 23 aprile 2025. Il fascista alla porta, storia strana e strada bruciata. Roma è nervosa, bolle col partito. E quindi abbiamo ascoltato Turn Me Down, 10-100.000 H. Larenzia. Come carme della villa da fare, libera caduta tra le nuvole di un'illusione. Dal lavoro che è una raccolta di vecchie produzioni, uscito qualche anno fa, 2022 se non andiamo errati, 2021. Per quanto riguarda Turn Me Down, in realtà abbiamo il vinile, ma abbiamo dovuto estrarre la traccia. 10-100.000 H. Larenzia, appunto, per semplicità di trasmissione, altrimenti dovevamo fare i salti mortali con i vinili. E questa fa il paio. Assalti frontali da capo. Da conflitto. Fascisti in doppio petto. Eccola. Il fascista alla porta, storia strana e strada bruciata. Roma è nervosa, bolle col partito primo nero in casa. So che dentro ogni borgata dispersi pazzi votano come il verme della villa d'Arcore. Libera caduta tra le nuvole di un'illusione. Bene, così stanno le storie. Un milione di persone in piazza non basta. Senza più cittadinanza il fumo si alza solo. Sento parlare della razza pura. Non era storia conclusa, chiusa. Così sono cresciuto razza umana. Ma il teleschermo ha cancellato il tempo. Qua chi ha telecomando manda indietro il mondo. Perché ho già visto il film e il mondo. Tragica trama. La gente in fila che si incammina. In contrascale non esiste da arrancando sale in cima. Ad aspettarla c'è una ghigliottina. Il tuo posto è un premio, un regalo date. Tutti grazie per la merda di lavoro rimediato. Ecco i fascisti in doppio petto. Ci sono addosso e conflitto parla. Puoi parlare ancora, puoi parlare e parla. L'Italia ci allontana e si prepara alla guerra. Guarda ti vesti, ti vestiti tuoi padri migliori. Un bacio dato in fretta ai genitori. Suonano i tamburi. Anni difficili davanti per tutti i figli di anni. Sono un partigiano e sarò chiaro. Perché ci si abitua tutta a te fasci. Assassini sullo sfondo, doppio petto il primo piano. Difficili davanti per tutti i figli di anni. Sono un partigiano e sarò chiaro. Perché ci si abitua tutta a te fasci. Assassini sullo sfondo, doppio petto il primo piano. Siamo un bersaglio, chiedo un consiglio. Dov'è la tua via d'uscita? Dov'è finita? Andiamo, guardo oltre il finestrino, oltre le gocce della pioggia che lo appanna. Cerco gli angoli e gli incroci, cerco musica che arriva dalla folla. Storia strana, fuori strada, ognuno ha la sua casa. Ti capisco certo, Roma è nervosa. Ti stai perdendo nel caos, storia pericolosa, sì lo so. Che non è colpa tua, tu non sei razzista, sei realista, sei nessuno. Anonimo nel panico, un senza nome. Un italiano della sua nazione. Anni difficili davanti per tutti i figli di anni. Sono un partigiano e sarò chiaro. Perché ci si abitua tutta anche ai fasci. Assassini sullo sfondo, l'occhio petto in primo piano. Difficili davanti per tutti i figli di anni. Sono un partigiano e sarò chiaro. Perché ci si abitua tutta anche ai fasci. Assassini sullo sfondo, l'occhio petto in primo piano. Difficili davanti per tutti i figli di anni. Sono un partigiano e sarò chiaro. Perché ci si abitua tutta anche ai fasci. Assassini sullo sfondo, l'occhio petto in primo piano. Thank you. riusciamo un po' a dare qualche, a mappare quelle che saranno le numerosissime iniziative di domani e dopodomani, almeno qui a Roma. E perciò stesso ci scusiamo in anticipo con chi ci ascolta invece da Terni e Perugia, per cui non abbiamo informazioni relative a quelle che saranno le storie, le vicende, i festeggiamenti e i momenti di lotta che ci saranno in quei territori. Iniziamo con l'ASC Pigneto Team. Verso il 25 aprile, giovedì 24 aprile, dalle 16 alle 19.30, presso il campo dell'ASC. Pigneto Team si svolgerà la Coppa Junior di Liberazione. Quindi 16.30, 19.30 con Coppa Junior di Liberazione, torneo di calcio giovanile, solo con scarpini da calcetto. Dalle ore 18 cena popolare a cura di Rotta Genuina. Alle ore 20 proiezione del docufilm Rino della Negra, calciatore partigiano, di Daniele Ceccarini e Mario Molinari. Introduce il giornalista Mauro Buzzocchi. Intervengono i registi. Sono un educato, non ho mai dimenticato. La vita è selvaggia, dura e accacci. Il nemico ci vuole, tutti sotto botta, sotto depressione. Non morirmi amore, tempo di dare una grande lezione. Aprirci come l'eroe. 24 aprile, Liberation Dance. Una volta assati, ma se non ti dai il tempo, non hai il tempo per gli altri. La mia felicità, sempre in tensione. Memoria e resistenza come ingranaggio collettivo. Dalle ore 18 mostra fotografica promemoria, dibattito, storie resistenti. Intervengono Mattia Crocetti, autore della mostra, Lidia Piccioni, professoressa della Sapienza, Stefania Fattori, Madri per Roma Città Aperta, e Cristiana Galloni dell'Acrobac. A seguire cena e proiezioni. Dalle 20 alle 2 di notte Radio Torre Sound System, Mitz, Sista Gaia, Immiruz Crew e Country. A volte si alza un vento di tempesta, un uragano mentale dentro la mia testa. Devo star bene adesso, basta, ma c'è qualcosa di intrigante nel... E poi 25 aprile, giorni di liberazione al Pigneto, sempre quartiere in festa, dalle 11 alle 24. Piazza Nuccidelli Persiani, Giardini Galfati. Ci sono fuori, però me ne sto fuori volentieri. E me ne vado in giro, cerca di non aspetto da nessuno. L'iniziativa è promossa e autogestita da quelli del 25 aprile e arriva quest'anno alla sua 22esima edizione. Si svolge nella piazza del centro sportivo dedicato agli antifascisti del Pigneto. La legge sulle nostre facce. Ferdinando Persiani e Fernando Nuccidelli, deportati e uccisi a Mauthausen nel 44. Quindi abbiamo già parlato del 24 aprile, poi 24 e 25 aprile abbiamo detto il torneo di calcetto. 25 aprile invece c'è la finale Under 14, il torneo per adulti, sempre presso la PSSD Pigneto Team, via Ettore Giovenale. Il 25 aprile, piazza Nuccidelli Persiani, via Mariano da Sarno, dalle ore 13 alle ore 24. Questo è il programma. Piazza del Pensiero Critico, una piazza della cultura indipendente e delle autoproduzioni, con librai, editori, artigiani e collettivi. Onda Rossa Piazza, dalle ore 11 alle 13, diretta Radio Onda Rossa con le piazze e i cortei. Dalle ore 13 alle 15, Ponte Radio Guerra, talk radiofonico in diretta condotto con diverse radio in Italia. Dalle 15 alle 17 interventi e musica in diretta con Radio Onda Rossa. dalle 17 alle 19 assemblea in diretta Radio Onda Rossa a tema guerra interna, riarmo e ricadute negative in termini sociali di DDL 1660. Dalle ore 19 alle 21 contributi artistici Pianeta Sonoro. Non è mai come vuoi, girando per cercarla in città, certo. Ho avuto la fortuna di crescere. Dalle ore 21 DJ set con Pan, Cambon e Peri Longu. Metta a fuoco il nemico. Bato Ren, Alicia Mandara e DJ Rebel. Giardini Calfatti Rai, basta sempre Flavia, dalle ore 19 alle 20 DJ set con Luca Colle Piccolo, dalle 20 alle 24 live set con Murat Lucchesi, Wewe, I Don't, Asiab e Eight Moss. Tornei Coppa 25 aprile, all'interno dell'iniziativa si svolgeranno tornei popolari di calcio a 5, il 25 aprile si svolgeranno le semifinali e finali di ping pong, biliardino e scacchi liberi. Free All Antifa, Free Palestine, autogestione e autodeterminazione contro ogni sfruttamento, fascismo, razzismo, contro la guerra. L'evento è interamente gratuito, finanziato ed organizzato a basso impatto ecologico e privo di barriere architettoniche. Tutti gli organizzatori dell'evento, gli artisti coinvolti contribuiscono a titolo volontario, ogni contributo è prezioso. Se vuoi partecipare attivamente, contattaci. Poi verso mezzanotte ci riusciamo da forte, quattro macchine pronte, due. Il traffico sarà sospeso per dalle 8 alle 24 intorno, insomma, alla piazza dove si svolgeranno gli eventi. La linea della metro della Tiburtina, quando uno è dietro l'altro vedo uscire fuori, vedo nel buio giù. E noi strani, uno, due secondi di... con banda Iorona. Andiamo a spiegare come fa spesso anche l'automatico, come si manifesta il fascismo moderno. Onda Rossa, 25 o'clock, dai! Ferma alle 10:25 la scritta, come il fascismo. Quando si parla di fascismo, spesso si parla di un fenomeno politico. Dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate e il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale. Prima che sociale è interpersonale. È interpersonale. Il fascismo come dottrina politica è la trasposizione su un piano pubblico di un rapporto basato sulla coercizione e la violenza, sull'identificazione in un gruppo, sulla trasformazione da leader a capo. Il fascismo è corporativismo, è l'idealizzazione della gerarchia, della verticalità nelle relazioni, del prevalere del più forte, sul più debole. Il fascismo sta nell'imporre la propria idea sugli altri con la violenza, a non metterla mai in discussione. Prossimo di vedere nelle differenze unità. visione della spirale di distruzione insita in ognuno di noi. Pasolini scrive: non occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle sue forme pazzesche e ridicole. Occorre essere fortissimi per affrontare il fascismo come normalità, come codificazione direi allegra, mondana, socialmente eletta del fondo brutalmente egoista di una società. Forti, migliaia di persone assassinate. Miserie senza fine. La parola d'ordine sembra essere una sola: ammazzare. La pena di morte. 4 fucilazioni. 2 condanne a morte. 6 terroristi condannati a morte. 3 condanne alla pena di morte. 2 condanne a morte. 5 condanne a morte. Terrorista passato per le armi. 6 terroristi condannati a morte. 56 banditi uccisi. 41 fucilazioni. In questo ufficio, in una fabbrica torinese, si radunava periodicamente il CLN, un servizio di segnalazione all'ingresso ed una via pronta attraverso le cantine per mettere in salvo tutti i piani e i documenti. E sulle montagne, sulle dure montagne piemontesi, in tutte le valli, fin sui picchi nevosi accanto ai ghiacciai, i partigiani in armi. Collegati con il mondo per mezzo della radio, informatrice preziosa, sistemati nelle baite, in case di campagna abbandonate e mezzi in rovina, conducono la vita dura del fuorilegge. Partigiani in armi tutto intorno alle città, nelle campagne, sulle colline che conobbero le dolci stagioni di pace delle mietiture e delle vendemmie. Ora sempre allerta, ma tutto il popolo è con loro, sono con loro arie e contadini incuranti di ogni rischio, di ogni minaccia. Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchini, si facevano cazzare. Quando si fressero gli si fa gommia davvero a questi. Settembre settembre qualunque, finché qualcosa di un uomo qualunque dice questo non lo sarà. So che è già stanco quel poco coraggio che resta, ma se questa mano ha le dita serrate è per stringerlo forte, non farlo fuggire, e oggi non fuggirà. Perché comunque sarà, non è per l'onore, l'orgoglio, la gloria. Domani cosa accadrà? Se è nero l'inchiostro che scrive la storia, e quando mi ricorderò di un giorno qualunque col cielo già scuro, so già che sorriderò, perché me lo ricordo ancora al futuro. Hey, hey! Perché per essere fascisti bisogna che tu sia imbecille, se non c'è verso che tu lo sia. Col parabelle spalla caricato a palla, sempre ben armato, paura non ho. Quando avrò vinto, quando avrò vinto. Col parabelle spalla caricato a palla, sempre ben armato, paura non ho. Quando avrò vinto, ritornerò. Sempre ben armato, mi vuol salutare. E poi mi disse, e poi mi disse, e allora 23:50 minuti primi, e quindi abbiamo ascoltato in rapida sequenza. Ho vinto quando avrò vinto. Col parabello in spalla caricato a palla sempre bene. Un estratto dal Museo della Resistenza di Torino. Ritornerò. Un audiovisivo che è diventato a Radio Onda Rossa solo audio, che ricordava i giorni convulsi del 45, della primavera del 45, e poi ai Resis, un giorno qualunque, e poi Parabello, direttiva 16. E questo invece che dicevamo, annunciavamo fuori onda pochi minuti fa, beh, ve lo mandiamo, poi mandiamo una traccia. Comunque si tratta di quelli, almeno della nostra generazione, di quelle e quelle, almeno della nostra generazione, che possono ricordare i più giovani, forse, se sono fortunati, l'avranno visto in qualche... remake televisivo. Comunque è Corrado che annuncia la fine della guerra. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Lavoratori. Fischia al vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Liberissima. che ve lo dica fa 06491750 Radio Onda Rossa. Al vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Che sventoli per bacco, che sventoli! Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda, la mucca non dà latte, Giacomone bacia Maometto, le scarpe mi stanno strette, il pappagallo è rosso, l'aquila vola. Parla Londra, abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. Quindi Radio Onda Rossa 25 o'clock, mezzanotte 5 minuti, ormai 24 di aprile 2025. E abbiamo ascoltato Fischia il Vento nelle tre versioni: palcoscenico al neon, P38 Punk, Schiantos e poi Dalla Tuscia, Servi o Ribelli, razza a parte. 06 491 750, ricordate che questa radio non campa d'aria ma vive grazie al contributo di tutte e tutti voi dal 1977, che non fate mai mancare. Attraverso la militanza, o quella che una volta magari avremmo chiamato militanza di area, l'area sociale. Vabbè, insomma, ci stanno tante tante compagne che sono vicine alla radio da sempre e anche da meno di sempre. Per fortuna ci stanno anche le nuove generazioni che si affacciano e ci sono vicine. Ultimo, ma non ultimo, è l'apporto finanziario, quindi la campagna di radio abbonamento di Radio Onda Rossa. Jubiror. Nell'anno del giubileo Roma messa a ferro e fuoco, e in questi giorni, insomma, con la dipartita del Santo Padre, così si dice. Buono o non buono, si faranno sfaceli. Perché è così che funziona questa città, è così che funziona il mondo. Va bene, continuiamo invece concentrati sul punto, sulla festa del 25 aprile, la festa della liberazione. Sempre andando a leggere da Calcio di Roma e facendo una mappa di tutte le iniziative che ci saranno in città in questi giorni. Contro genocidio, colonialismo, apartheid, 25 aprile. Ore 8, Porta San Paolo, resistenza e liberazione sono fiori che non muoiono. Sempre dalla parte di chi resiste, tutte a Porta San Paolo. Più passano gli anni e più la memoria antifascista è sotto attacco, per questo ci appare incomprensibile la scelta di lasciare che uno dei simboli più importanti della resistenza venga abbandonato per evitare tensioni con alcune formazioni politiche e le polemiche che ne seguirebbero. Per questo 25 aprile saremo alle 8 a Porta San Paolo e invitiamo tutte e tutte le antifasciste e gli antifascisti di Roma a stare lì con noi. Sono mesi che i fasciosonisti imperversano per la città con provocazioni e minacce continue. Non dimentichiamo i fatti di Monteverde, i continui sfregi al murale di Shiren, al giornalista uscito a Gaza, la continua vandalizzazione di Andala al Gabbardella, le svastiche fuori dalla ex SNIA e le aggressioni a San Lorenzo e a Tor Pignattara. Sono queste le pratiche di chi boicotta le mille forme di solidarietà al popolo palestinese che si esprimono nei nostri quartieri e che chi solo l'anno scorso si è presentato a Porta San Paolo in massa con cori inneggianti allo sterminio con insulti sessisti. È per questo che riteniamo irricevibile che tali soggetti possano approparsi del 25 aprile e dei valori che rappresenta. Riprendiamo dunque le parole della lettera aperta alla Roma antifascista per rilanciare l'appuntamento di Porta San Paolo. nel pieno di un genocidio e di un attacco feroce e sistematico alla storia dell'esistenza al nazifascismo, nel giorno di celebrazione non possiamo voltarci dall'altra parte. L'antisemitismo, l'antisemitismo non c'entra nulla, siamo stanchi di doverlo ribadire, così come siamo stanchi dell'uso strumentale che si vuole fare della storia per giustificare le aberrazioni del presente. La memoria della resistenza va difesa nella sua complessità senza semplificazioni né riletture funzionali e neutralizzarne il senso politico. Se questa situazione ti divisa tutto, non vuoi più lottare e ti senti perso. E ancora da Gancio de Roma, corteo antifascista per liberarsi dalle guerre, resistenza da 80 anni. Il nostro modello. Siamo una razza dura, dura e cambiamenti, Bologna. 25 aprile 2025, ore 9.30, fiora al partigiano, corteo antifascista, ore 10 a Piazza delle Camelie. Per liberarsi dalle guerre e resistenza da 80 anni, il nostro modello, ore 9.30, fiora al partigiano, ore 10, corteo antifascista. Piazza delle Camelie a Centocelle. Un grido per la voce, di chi non l'aveva, allora raccoglilo, se lo senti in strada, forse la rivolta. E poi ancora il Centro Sociale Spartaco presenta. Ancora siamo una razza dura, dura e cambiamenti. 25 aprile antifascista e pacifista al Parco degli Acquedotti, al Wall of Waiwawa, Next Music Academy, Los. Non ci fa paura. Ad Okines de Spartaco. E alle ore 10 al tramonto, ingresso gratuito via Lemonia 218, supporta la Spartaco Challenge. Il 25 aprile antifascista e pacifista al Parco degli Acquedotti, vi aspettiamo dalle ore 10 e fino al tramonto al Parco degli Acquedotti per festeggiare insieme l'80° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Una giornata come sempre a cura del Centro Sociale Sparta con collaborazione con Cinecittà Bene Comune e Inattivi Roma, che vedrà protagoniste musica e cultura insieme a temi politici e di attualità. L'antifascismo e il pacifismo sono alla base delle azioni che ogni giorno portiamo avanti nei nostri territori, costruendo comunità attive e solidali nell'impegno collettivo per la pace, l'accoglienza e risposta al clima globale di guerra. A farci cantare e ballare ci saranno Wall of Power, gli artisti e le artiste di Next Music Academy and Studios e Murgalos ad Okines de Spartaco. Quest'anno il punto ristoro. Punto ristoro solidale sarà a cura di Grandma. Quest'anno, parteciperanno dal 25 aprile al Parco degli Acquedotti, sostieni la campagna di raccolta fondi Spartaco Challenger per pagare gli arretrati e procedere alla regolarizzazione del Centro Sociale Spartaco. Parco degli Acquedotti, via Lemonia 218, metro Giulio Agricola. E ancora da Gancio di Roma, andando in rassegna tutte le varie iniziative, cortei, feste, festeggiamenti, picnic eccetera che ci saranno nella città di Roma 24 e 25 aprile. I Love Torpigna, festa della liberazione, 25 aprile 2025, dalle 11 in poi, picnic, laboratori, letture, performance, yoga, fitness, giocoleria, musica e tanto altro, al Parco Giordano Sangalli, viale dell'Acquedotto Alessandrino, Torpignattara. Undicesima edizione della festa della liberazione a Parco Giordano Sangalli, via dell'Acquedotto Alessandrino, a Torpignatta. Un evento che rinnova una tradizione che si ripete ogni anno in occasione del 25 aprile per festeggiare insieme in questo spazio comune che è diventato luogo sindono di incontro delle tante comunità del quartiere. Quest'anno l'ottantesimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo cade in un luogo lungo ponte di ricorrenze e festività, e saremo per molti giorni di vacanze e di partenze. Ma per chi resta, il picnic resistente promosso dal CDQ Torpignattara sarà ancora una volta un'occasione per stare insieme alle associazioni, ai comitati, a tutte le persone che vogliono ritrovarsi a trascorrere una giornata di festa e di condivisione. Il motto di quest'anno sarà Libere Tutte. Libera le associazioni, gli artisti, le artiste e ogni realtà del territorio di animare il parco. Allora, e nel modo che vorrà, insomma, niente scaletta sanremese, ma ci si lascerà guidare dalla bellezza di scoprire in ogni momento della giornata, in ogni spazio del parco, cosa accadrà. Liberi di portare i teli per i picnic, sette di plastica riciclabile o bambù, il servizio di porcellana buona della nonna, e mangiare quanto vi verrà fame. Le scuole del territorio sfameranno i partecipanti con il consueto picnic autofinanziario per raccogliere fondi e per sostenere studenti e scuole nelle attività didattiche ed extradidattiche. Si ringraziano i volontari del comitato spontaneo Acquedotto Alessandrino per la cura quotidiana che dedicano al parco San Galli, contribuendo alla migliore riuscita di questo e tanti altri eventi. Ha scelto solo una nuova gabbia, solo qualcun altro che pensi per te. Disgustato dai conformismo, ha scelto nuove regole. E ancora, 25 aprile 2025, festa di liberazione, dalle 14, Parco Podesto di Veglia al Quarticciolo. Dalle 14, dicevamo, il Parco Modesto di Veglia al Quarticciolo, musica, reading, cibo, bevande, banchetti, area per piccoli, con teatro, laboratori interattivi, attività ludico-motorie. All'Eros, Jamie Tides, Giancane, I Shine, Inna Cantina, Margherita Vicario, Michele Rondino, Orange, Pex, Revolving Bridge, Tara, Valentina Lodovini, White Mary e Rest H Banana. E quindi 25 aprile alle ore 14 al Parco Modesto di Vegna, via Ugento, al Quarticciolo. L'evento si tiene a conclusione del corteo antifascista che parte alle ore 10 da Piazza delle Camelie a Centocelle, di cui abbiamo parlato poc'anzi. E ancora, credo sia l'ultimo, 25 aprile a Parco Schuster dalle 14. 80 anni di liberazione. Picnic, scalette, spettacoli per grandi e piccine, musica, samba della liberazione. Camminando fianco a fianco, pochi credendo diversi sì, ma sui 80 anni di liberazione, resistenza ad 80 anni, il nostro modello. Anche quest'anno, come Rete Roma Sud, abbiamo deciso di mantenere salde le nostre sane abitudini antifasciste ed invitarvi a passare ancora una volta tutti insieme il pomeriggio del 25 aprile per continuare a resistere, per continuare a cospirare insieme, per continuare a sognare quella festa d'aprile che grazie ai partigiani e ai partigiani ci porterà alla liberazione. Dopo le mobilitazioni della mattina, come tutti gli anni, ci vediamo a Parco Schuster, ognuno con il suo telo e quello che vuole mangiare e condividere per tutto il pomeriggio. Per tutto il pomeriggio, microfono aperto per interventi solidari, solidari e resistenti, banchetti informativi a sostegno delle realtà in lotta, buona musica e ottimo vino per brindare ai partigiani e alle partigiane dalle ore 15, grande samba di liberazione dalle ore 16, spettacolo di clowneria per tutti. ieri partigiani, oggi antifascisti, 25 aprile sempre. E chi invece, l'ultimissima questa, volesse andare in bici, siccome è pure l'ultimo venerdì del mese, ore 19 cerchio, dove andiamo oggi? Come lo facciamo? 19:30 siamo traffico in bici per raggiungere la massa Critical Maps. Del 25 aprile. Questi sono Prisoners, un dischetto che non mettevamo da tanti anni, Vuoti di memoria. E c'è pure chi ha letto la Resistenza come guerra di liberazione, anche da quello che si prospettava immediatamente essere come il nuovo potere che si stabiliva nel nostro paese, in Europa, o almeno nell'Europa occidentale, quindi l'immediata appena dopo Norimberga, l'immediata nascita del nuovo scontro fra blocchi e quindi dei nuovi poteri che si stabilivano. Se li lasci fare sempre vincerà. Un potere che ha visto la NATO e gli Stati Uniti nel nostro paese non solo con le basi militari, ma con una ingerenza. Un'ingerenza e una sovranità limitata praticamente per tutti gli 80 anni che arrivano fino all'oggi. E oggi, in questo nuovo scombussolamento degli equilibri a livello globale, diventa ancora più evidente come questa sudditanza si sia perpetrata. Eppure in questi 80 anni più o meno, in maniera continua, attraverso un filo rosso di discorsi e di eredità che ci siamo passati fra i partigiani e i militanti che sono venuti dopo, questa idea della liberazione incompiuta c'è ancora oggi, e questo è Yankee Go Home. In questo 25 aprile non si può, a oltre un anno e mezzo da quello che è il genocidio e l'eccidio di giovani donne e uomini palestinesi da parte dello stato colonialista di Israele, principalmente in quel di Gaza. Ma anche in Libano, in Siria, nei territori occupati della Cisgiordania. E purtroppo è un piano. È un piano di sterminio che ha la connivenza, la compiacenza di buona parte della informazione mainstream asservita allo sterminio, al genocidio. In cui il senso della del modello di mala informazione che viene fornito è proprio quello di diluire ed assuefare se è vero che l'informazione, le notizie, la presentazione delle guerre e degli stermini è parte della strategia della guerra e dello sterminio stesso. Il celebre utilizzo dei doppi standard o semplicemente del posizionamento la nostra paura, dicevamo, è proprio quella che la sua fazione diventi poi effettiva e totale e che si possa perpetrare lo sterminio in quell'area del mondo a proprio piacimento. Compiendo degli artifici di manipolazione semantica che tendono a occultare la realtà, noi andiamo di tanto in tanto a tirare fuori delle cose, ma insomma, così, semplicemente a titolo di esempio, questo è un lavoro del 2014, se non andiamo errati, da Torino, Gavroche. Che proprio partendo dal mito biblico rovescia quella che è là il racconto, e appunto è quello di Davide e Golia per quanto riguarda la Palestina. Gavroche, Davide e Golia. Abbiamo sbagliato la traccia, più che altro abbiamo spinto troppo velocemente. Eccola qua, Davide e Golia. Orizzonte vede solo guerra, crudeltà, miseria, umiliazione. Cresco dentro un campo profumi, sentimenti di odio e rancore. Non c'è futuro, non c'è prospettiva. L'ingiustizia è quotidiana, né scuola, né lavoro. Questa mattanza è disumana. Cuore che brama libertà, coraggio e fionda impugnerà. E nel suo gesto ci sarà la tua mano guiderà. Oppressione, morte, occupazione, la resistenza è obbligata. Pietre volano sull'Occidente di Palestina, intifada. Ciò che fa male non è un'esplosione, ma silenzio, qui tutto tace. Dove sarà la prossima invasione? Dove che oggi porteranno la pace? Cuore che brama libertà, vedrà. E nel suo gesto ci sarà. E la tua mano griderà. Siamo coinvolti alla violenza, colpevoli di indifferenza. Lo vendo una bambina, coi dolci alla cannella. Sto sotto quella stella, fuori da una tenda. Se non la vedi, togliti la benda. È preziosa, gentile, dolce, bella. È così forte, Gazzawi, gazzella. Porta una speranza, pazza. Va a dormire nel suo letto, si sveglia in ambulanza. Hanno ucciso la tua mamma mentre andavate per mano. Il cuore mi pesa, perché è un cuore umano. E questa storia ci ha preso tutti. La musica, l'azione daranno frutti. Perché l'unica cosa che ci consola è farti sapere che non sei sola. Siamo artisti come te, gente che si somiglia. Ormai ti amiamo, siamo come una famiglia. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo. Mettetevelo in testa. Andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo. Con la nostra potenza. Persone stupende preparano il tè e fanno resistenza. Calore, ruba il cuore, fiore di ribellione, intorno al fuoco a ballare, battere pentole, rumori di aerei, bombe, pallottole, mangiando ceci, cuocendo il pane, tenendo il più possibile le guerre lontane, i libri di scuola, accendono falò, aggrappata alla vita, più forte che si può, apri gli occhi all'improvviso con la faccia bruciata, in barella su un calesse, la vita se n'è andata, nave alla deriva a cui manca la prua, ti fa coraggio un'altra mamma che non è la tua, e ora sei maestra, maestra di vita, sboccia energia che sembrava sparita. Nel buio, tra le bare di lenzuola, mentre i bambini al mondo si preparano alla scuola. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo. Mettetevelo in testa. Andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo. Con la nostra potenza. Persone stupende preparano il tè e fanno resistenza. Times Square, Trafalgar Square, Torre Eiffel, Chanel, San Pietro, i mille pezzi come uno specchio di vetro, l'Occidente non è più niente, bugiardo, coloniale, ha distrutto ogni ospedale, ogni ricordo di vita normale, la gente senza scampo, lotta ancora ed è il nostro vanto, e noi più forti di prima, perché il regista continua nel film dell'orrore e la Palestina, e dietro quella tenda, se non la vedi togliti la benda. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo, mettetevelo in testa. Andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo, con la nostra potenza. Persone stupende preparano il tè e fanno resistenza. Genocidio, sono le botte, si prendono e si danno. Pace sociale, hanno mandato tutte le forze a disposizione e in questa seconda fase sono venuti i tafferugli e i pestaggi. Gli agenti, sia dei carabinieri sia della polizia, avessero mazze da baseball in dotazione o comunque abbiano fatto uso e uso. Il padre e due figli, premeditazione, certo, allora vuol dire che questi giravano comunque con coltello in tasca abitualmente. È certo che siano di aree di estrema destra. Estrema destra. Mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo i muscoli e i cuori in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distanti di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il colore della bandiera, partigiano della folta

troppo era il furore, quattro ne fece fuori prima di cadere. E cadde sulla neve ai piedi dell'amico, e cadde anche la luna nel bosco insanguinato. Due alberi fiorirono vicino al cimitero, i fiori erano rossi, sbocciavano d'inverno. Chiara, la luna un grande lume, Euriolo e Niso uscirono dal campo verso il fiume. Ci siamo sentiti, ascoltati in sequenza a salti frontali. Fanculo, ci siamo anche noi. E poi bravo Lele Prox in questa manipolazione e rielaborazione di Stormy Six. Stalingrado, Milano, Baghdad. E poi est. Siamo i ribelli della montagna e ancora Gang, Euriolo e Niso che vanno a ripercorrere la figura retorica dei due guerrieri, dei due partigiani, probabilmente una figura retorica non solo di profonda amicizia, ma di vera e propria omosessualità, amore omosessuale. Come appunto che nella guerra e nella guerriglia già ci sia il fiore dell'avvenire. Non potrebbe essere altrimenti dopo questa enorme distruzione. Ed è proprio questa l'idea della resistenza, mettere e porre fine alla guerra, alla sofferenza, alla distruzione, anche a scapito dei propri tanti sacrifici, del non pensare a sé, al non aver un domani, per cui l'unico domani che si ha è quello di resistere. Radio Onda Rossa 0649175087 9, della modulazione di frequenza in DAB da Perugia, Terni, Roma e ancora nel web www.ondarossa.info, il sito da ovunque voi siate. E questa è l'Occitania, l'Odalfin Lupal. This Machine Still Kill Fascist, disco dei Trapping Murphys dedicato a Woody Guthrie. Sei il calcumbo, tumbo, tumbo, questa è la sua, la loro, di Gheul. Minuti dopo la mezzanotte, Dropkick Murphys che canta Rudy Guthrie e attraverso un artificio di macchina fa cantare Rudy Guthrie insieme a loro stessi. Dig a hole. E noi invece andiamo ad ascoltare stavolta di Woody Guthrie. Miss Pavlichenko era una studentessa sovietica. Più o meno abitante a, credo in Crimea, Sebastopoli o qualcosa del genere, che nel 1941 si arruolò come volontaria insieme a altre 2000 donne, andò a fare la cecchina. Di queste 2000 donne solo 500 si salvarono dalla guerra. Lei fu una di queste. e pare che fosse abbastanza efficace con il suo fucile di precisione. E questo è l'omaggio che ne fa Woody Guthrie. Miss Pavlichenko. Pavlichenko, well known to fame, Russia's your country, fighting's your game. The world will always love you for all time to come. 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun, fell by your gun. More than 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun. In the mountains and canyons, quiet as a deer, down in the forest, knowing no fear. Lift up your sight, down comes a Hun. 300 Nazis is felled by your gun. Fell by your gun, fell by your gun. 300 Nazis fell by your gun. The hot summer's heat or the cold winter's snow, all kinds of weather you track down the foe. Your face is as bright as the new morning sun, but more than 300 Nazis fell by your gun. Fell by your gun, fell by your gun. More than 300 Nazis fell by your gun. Fell by your gun. Morti, migliaia di persone assassinate. We'll be right back. восьмого флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Во знаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин! Приказ Верховного Армия и военно-морской флот. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин. Приказ Верховного маршал Советского Союза Сталин. Сильной войны. Знаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин. minuti dopo la mezzanotte a tutte le resistenti, a tutti i resistenti. E attraverso Cassandab neurologici e la sua manipolazione abbiamo sovrapposto Yuri Leviathan che annuncia la vittoria sovietica sopra la Germania nazista. Con questo chiudiamo questa puntata di 25 o'clock del 23/24 di aprile 2025. Abbiamo annunciato 1 milione di iniziative che si terranno solamente a Roma. Ci scusiamo di nuovo con i compagni e le compagne di Terni e Perugia per non aver fatto una ricerca anche su quei territori dove sicuramente ci saranno iniziative più o meno autogestite. Il ricordo del ricordo della resistenza dei partigiani, delle partigiane. Festa della liberazione del 25 aprile che va assolutamente coniugata con quello che è il genocidio in atto da parte dello Stato sionista. Un genocidio, un eccidio, uno sterminio a cui vorrebbero che restassimo spettatori in silenzio, anzi vorrebbero che ci voltassimo proprio dall'altra parte. Ma quella è una ferita aperta non solo appunto in quel territorio, ma una ferita aperta nel suprematismo, nel colonialismo di tutta quella che è la cosiddetta civiltà occidentale. È la contraddizione più stridente, appunto, è la piaga dentro cui infilar il coltello. Non se ne esce. Noi invece ci apprestiamo ad uscire dalla radio attraverso la lettura delle di quello che è il palinsesto della radio nelle prossime ore. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata e poi no, non si chiama più Sonata, i Muse. I Muse, non so come, no, I perché è Y. Dicevamo, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica, come diavolo si chiama in muso quello che è. E si riprende la programmazione in diretta della radio con la rassegna stampa, anzi la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali, il tutto dalle 8 alle 10, poi dalle 10 alle 12.30. Redazionali che riguarderanno ancora quelli che sono i temi caldi. E quindi il 25 aprile e la Palestina e le guerre. Quelle attuali e quelli che si prospettano in futuro, a cui dobbiamo porre tutta la resistenza, questa della nostra epoca. Dalle 12.40 alle 13.40 la replica di Impatto alle 13.45 tutta scena cinema. Dalle 15 alle 16 disabilità punti di vista, ma credo che domani la puntata sia impossibilitata a tenersi qua in radio. Poi dalle 17 alle 18 la schiena del Sol prevede il palinsesto, dalle 20 alle 21.30 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa. 21.45 Noddy Buspanis, e a chiudere la serata, la nottata, i cuginetti di Apostasia. Salutiamo Paizo, a proposito, che ci è venuto a trovare questa notte. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari. Centri di detenzione per migranti. E tutti i decreti amministrativi che ci costringono attraverso la notifica di un questurino a risiedere nei nostri territori, a stare dove lavoriamo, dove abitiamo. A proposito di libertà, mercoledì prossimo non ci saremo, speriamo di esserci invece fra due mercoledì. Bella a tutte e a tutte, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai! See you. dreams, I'll share our dreams under a communist moon.